Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ripartiamo in questo lunedì, caro Oscar. In questo post-platonico. Post-platonico, anche ieri tutto esaurito al Manzoni. Felicissimi. Nel post-platonico finalmente l'amore si fa sul serio. Questo è il motto della compagnia di ieri sera. Ha iniziato la settimana con questo motto. Quindi, care signore milanesi, state attente, per così dire. No, dai. Perché solo milanesi? Abbiamo giustamente Alessandro mi fa notare che l'ambizione è infinita. Allora, 27 marzo, oggi è uno dei 40 Sant'Alessandro. Io ho detto che li puntualizzavo tutti, perché tu dopo tutte le San Margherita, molto peccato. E invece sì, legionario romano. Quindi devi fare un regalo anche a me. Sotto, ma senso, questo no, non mancherò, e hai ragione. Senza che regoliamo i rapporti, come fai con Meazza oramai con le lettere degli avvocati. No, sto scherzando. Comunque, è anche oggi un Sant'Alessandro, legionario romano, martir sotto Massimiano, decapitato. E sono 40, io tutti i 40 te li segnalerò. Poi ci sono due santi, Aimone di Halberstadt, anche lì non canonizzato, vescovo nominato da un imperatore Ludovico Germanico, ma comunque importante, per siamo nel IX secolo in Germania. Nell'VIII secolo invece il primo vescovo di Salisburgo, San Ruperto, nel secondo la tradizione cristiana. Oggi, pensate, oggi 27 marzo, io non lo sapevo, nell'anno 1 avanti Cristo c'era il sacro, sapete che non è stato profano, ma sacro concepimento di Gesù, cioè l'angelo che arriva, eccetera, eccetera. Oggi, pensate. E mentre invece nell'85 il compianto Enzio Tarantelli veniva ucciso dalle Brigate Rosse, oggi nel parcheggio della Sapienza, a me sembra ieri, ma sono passati tanti anni. Nel 94 Berlusconi vinceva oggi le elezioni con la sua alleanza a doppio passo, nel nord di un tipo, nel sud di un altro, il Polo della Libertà, e la giornata internazionale del teatro. Io faccio gli auguri anche a Luca Zaia, visto che è il suo compleanno. Però posso dirti, Alessandro, mi ha colpito in questo fine settimana, un fine settimana di cose, a mio giudizio, personalissimo, positive. Primo, Roma e Milano, con due grandi eventi molto diversi, però se la sono cavata per lo standard italiano eccezionalmente bene. A Roma niente incidenti, finalmente un po' di sana prevenzione, i black block bloccati all'inizio non hanno potuto fare niente. Per Milano, per chi è stato a Milano, è stata una giornata straordinaria, davvero con straordinaria. Io penso che il Papa abbia toccato una corda vera. Io a volte non capisco bene lui quando parla di alcuni temi, ma è un fatto, è così, chi è stato a Milano sa che è vero. E poi, al di là di questo, anche a Roma nel succo dell'incontro sull'Europa è andato meglio di quanto si immaginasse, sia pur senza montarsi la testa. Dal punto di vista dello sport, la Ferrari è tornata a vincere 2 su 3 sul podio nel motociclismo. Non me lo sarei mai aspettato, sia per la Ferrari che i 2 italiani su 3. Guarda che sono dei segnali. Forse ci occupassimo meno di calcio e un po' di tutto il resto. Tu ci hai avuto la conferma nel Milan che non c'era il campionato, quindi anche per il no, Milan. Ottimo, però vuol dire che il closing è fatto e sarà lussemburghese. Ma i soldi ci sono, ma che cosa vogliamo di più? Certo, vorremmo che Putin non arrestasse la gente. Ma oddio, a dire la verità, hai visto che Salvini, siccome la politica è pragmatismo, dice che pur essendo lui per la libertà d'opinione, questa manifestazione non era autorizzata. Io ho già fatto un tweet personalizzato. Lui, gli ho detto: caro Matteo, cambia idea, perché se dice che Putin è meglio di Navalny, perché Navalny ha sì e no il 3%, la domanda che ti faccio è: quando la Lega per lunghi anni era al 3%, se avessero arrestato Bossi, che cosa avresti detto? Ecco, quindi ricordiamoci che non è la percentuale degli oppositori, visto che le elezioni non sono veramente libere, il 3% è tantissimo se avesse davvero il 3% oggi Navalny. Navalny è alla testa di una parte di Russia, giovane, internetizzata, che compara internazionalmente la trasparenza del paese, che non è molto presa dal sogno nazionalistico imperiale, che sicuramente ha stragrande consenso nella società russa, ma gli arresti e le cose di ieri nelle piazze sono un punto a segno per chi obietta alla corruzione del regime. A me apprendere che nelle mani di un ex compagno di classe, prestanome di Medvedev, il primo ministro di Putin, la tenuta Laiola, che era di Giovanni Malagodi, liberale in Toscana, non lo sapevo, mi ha fatto veramente riflettere su come... Lo sai grazie a Navalny, insomma, grazie al movimento di Navalny. Lo so, grazie a Navalny, appunto. Quindi, utilizzano quindi tutti internet. E poi pensa, anche il fatto, adesso su questo mi attiro tutte le ire, ma anche il fatto che nella SAR ieri la Merkel sia andata meglio, non solo del previsto, ma di come era prima, cioè, al 40%, l'SPD al 29%, cioè un'idea di solidità. Non è che io tifo CDU-CSU contro l'SPD. Anche questo, tutto sommato, non era una cattiva notizia. Non lo so, questi due giorni mi sono sembrati abbastanza positivi. Ringalluzzito. Arriva lunedì con tante belle notizie. Però ogni tanto bisogna riconoscere. Dice, porca miseria, non ti riconosco. Come fai a essere così ottimista? No, non sono ottimista. Però dico che ogni tanto bisogna riconoscere quando... Non sempre tutto va male. Ecco. No, questo sì. Allora, però... Noi, caro Oscar, vogliamo parlare di tanti temi, come sempre chiamateci all'800240024 per fare le vostre considerazioni su quello che volete, sulle attualità, su quello che ha detto Oscar, sulla politica, su quello che vi suscita. Però vogliamo concentrarci soprattutto sulla notizia che è uscita la scorsa settimana, no? Tra l'altro con alcuni titoli sui quali stavamo riflettendo prima di andare in onda, forse titoli un po' esagerati, perché quando si legge sui giornali che è stato arrestato e messo a domiciliari il dottor Spezzafemori, così è stato definito, stiamo parlando di un medico, un primario a Milano che è stato arrestato con l'accusa, accuse molto gravi, quelle di avere fatto operazioni inutili, avere messo protesi a pazienti che non dovevano essere operati. Addirittura questa accusa in un'intercettazione avrebbe spezzato il femore di una signora anziana per poi fare l'operazione. Fare esercizio addirittura per innestare una protesi poi su un paziente a pagamento. Cioè, esatto. L'idea è la violazione totale del giuramento di Ippocrate deontologico di un medico. Si tratta dell'arresto di Norberto Confalonieri. Detto che però un'intercettazione così, ci sono molti medici che hanno scritto, dice guardate che insomma questa semplificazione, il dottor Spezzafemori, ma in realtà non... Certo, le accuse sono molto gravi, è tutto da provare, bisogna essere garantisti, ma non è che esiste un'intercettazione in cui dice esattamente queste parole. Però anch'io ho toccato con mano tra i medici che conosco a Milano in questi giorni successivi, naturalmente ognuno di noi fa una specie, no, come bisogna fare le verifiche direttamente, no? E mondo spaccato in due, devo dire la verità. C'è chi dice avete esagerato, non è così, e c'è chi dice beh, con questi criteri i due terzi di noi finirebbero. Non la sperimentazione sullo spezzare il femore, su quello io ho raccolto molti dubbi che quella frase significhi davvero quello. Però detto questo, io non ho argomenti per militare, per così dire. Mi limito semplicemente a dire che molti hanno detto, vabbè, avete fatto i vostri titoli, però se la questione è che la multinazionale, vediamo cosa dice l'indagine, alcuni mi hanno, per esempio, critici, non sostenitori, cioè, però vediamo l'indagine cosa dice, perché se la questione è un assegno di 8.900 euro e andare con una famiglia a un congresso, due terzi, molti dei medici sarebbero nei guai, ecco, gli specialisti, non lo so. In ogni caso, non è che vogliamo parlare del caso in sé, ma vogliamo parlare del rapporto medico-paziente, perché è un problema che, soprattutto negli ultimi anni, ha portato a una proliferazione di cause. Come no? clamoroso dal punto di vista sanitario. E dall'altra parte numerico per i medici, per gli specialisti eccetera eccetera, ha comportato un verticale aumento dei costi dell'assicurazione per poter operare, senza la quale si finisce nei guai, per così dire. E in alcune parti d'Italia addirittura con le assicurazioni che hanno detto noi non vi copriamo, vedete un po' voi. Ci sono anche moltissimi medici che rifiutano tutte quelle specializzazioni, esatto. Dove, nelle quali si sa che ci sono più cause rispetto ad altre. Comunque vogliamo salutare i nostri ospiti, cominciare da Tonino Aceti, che coordina, è il coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato Cittadinanza Attiva. Buongiorno Aceti e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi. Salutiamo anche il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche al Mario Negri. Buongiorno professor Remuzzi. Buongiorno a voi. Professor Remuzzi, che proprio venerdì sulla Verità usciva con un'intervista a raccontare che la questione numerica delle cause è una questione impressionante, no professore? Sì, è impressionante, si tratta di 32.000 forse di più cause all'anno che continuano ad aumentare di anno in anno, e questa sta diventando una situazione insostenibile per gli ospedali, perché devono assicurarsi e diventa sempre più difficile trovare qualcuno che li assicuri, e anche per i singoli medici che rischiano di dover pagare delle assicurazioni private. Negli Stati Uniti la situazione è diventata paradossale, costa di più l'assicurazione di quello che paghi di stipendio. Allora ci sono delle situazioni curiose, si va in Florida in un ospedale e si cerca un neurochirurgo, sta da un'altra parte perché ce ne sono tre in tutta la Florida. Questo dice come è verso, perché nessuno vuol fare il neurochirurgo, si rischia no? Di andare a finire, nessuno vuol fare il neurochirurgo, nessuno vuol fare l'ortopedico, nessuno vuol fare l'ostetrico, che sono le professioni più a rischio. Tra l'altro professore Muzzi, lei citava proprio in America c'è una, forse una provocazione da parte di un medico che ha detto vabbè, questa è la situazione, allora sapete cosa dovremmo fare noi medici? Dovremmo smetterla di curare gli avvocati e i loro familiari. Beh, e le loro segretarie. E le loro segretarie, vabbè, anche fino alla settima generazione di coloro che stanno attorno agli avvocati, gli avvocati che ci ascolteranno. Ma secondo lei è uno dei problemi gli avvocati senza scrupoli? Sono avvocati senza scrupoli, e poi quando io parlo con gli avvocati, perché una volta questa cosa l'ho raccontata agli avvocati, tra l'altro erano contenti, erano tantissimi avvocati, e alla fine hanno convenuto su questa cosa qua. E loro dicono sì, però bisogna calcolare che ci sono anche i medici legali. Il problema è che c'è un gruppo di persone che specula sulla sanità. Noi non possiamo garantire di guarire tutte le malattie. C'è un articolo molto bello sul New York Times, c'è la crisi, facciamola pagare agli ospedali. Quindi uno se guarisce bene, se non guarisce incominciamo a fare una causa e poi vedremo cosa succede. E questa è pubblicità. Una cosa per esempio che mi ha colpito moltissimo, che riguarda voi, è che quando io faccio qualcosa nel programma di salute di Nicoletta Carbone, durante la pubblicità ci sono queste pubblicità, durante sì, insomma, sì, l'interruzione per e ci sono queste pubblicità di persone che dicono vieni da noi, non preoccuparti, paghiamo noi se perdi la causa. E questa è una cosa spaventosa durante un programma di salute, è veramente una cosa che non le piace, non le piace. Non è accettabile. Va bene. No, ma è chiaro che i numeri sono molto alti. Non so se Tonino Aceti ce ne dà alcuni. È d'accordo con l'impostazione di professore Muzzi, dice sono gli avvocati soprattutto, adesso lo traduco io il problema, adesso gli avvocati no, sono qui, ci scriveranno anche gli avvocati, ma noi, però insomma c'è questo proliferare di cause. Aceti, lei è d'accordo? Ma certamente c'è qualche soggetto che utilizza in modo profittevole il sacrosanto diritto del cittadino al risarcimento del danno nel caso in cui appunto incappi in un errore sanitario, quindi c'è questo fenomeno. Quanto questo fenomeno sia ampio non abbiamo, perlomeno noi, dati precisi, però sicuramente ci sono dei dati istituzionali sul fenomeno delle richieste di risarcimento del danno. Professor Remuzzi richiamava i numeri 30.000 circa sentenze all'anno, richieste di azioni all'anno. Noi abbiamo dei dati invece un po' diversi, noi abbiamo i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali del 2015, quindi un'agenzia governativa vigilata dal Ministero della Salute, che ci dice appunto che le richieste di risarcimento del danno per lesioni personali e decessi sono 9,79 su 10.000 dimissioni, vale a dire un rapporto dello 0,1% rispetto al totale, perché noi dobbiamo sempre immaginare che il volume di prestazioni che ogni anno eroga il Servizio Sanitario Nazionale è enorme, sì. È enorme. Quindi la percentuale che noi abbiamo ufficiale è dello 0,1% di richiesta di risarcimento del danno. E se incrocio questo dato con un altro dato dell'ANIA, che è l'Associazione delle Assicurazioni, ci dice che di queste poi nell'ambito civile circa l'80% sfocia con un'assegnazione di un risarcimento, e allora com'è? Di un risarcimento del danno. E allora com'è la questione? Sono tante, sono poche? Ci sono stati punti di vista diversi sui numeri, figli anche del fatto che noi non abbiamo un sistema ancora di registrazione ufficiale degli errori e soprattutto delle richieste di risarcimento del danno. L'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali ha iniziato da un paio di anni a realizzare questo rapporto, però ovviamente deve andare ancora tutto a regime. È un gap che ha il nostro paese, quello della tracciatura del dato nel caso di presunti errori e soprattutto per quanto riguarda poi la liquidazione di risarcimento del danno, che per esempio questo è un dato che ancora hanno coloro che erogano poi i risarcimenti, cioè ad esempio l'ANIA, quindi le società di assicurazione. Noi abbiamo anche un nostro dato diretto, noi raccogliamo ovviamente, tuteliamo nell'anno circa 26.000 persone che si rivolgono alla nostra organizzazione, che ha 300 sedi su tutto il territorio nazionale. I presunti errori medici, questo per dare anche il nostro punto di vista, il nostro osservatorio, sono la seconda causa di segnalazione dei cittadini al nostro movimento. La prima? Noi svolgiamo un servizio preventivo di consulenza per capire se effettivamente ci sono o non ci sono i presupposti, perché non amiamo indirizzare il cittadino a fare cause inutili, ma abbiamo anche un ruolo di responsabilità nei confronti del paese e quindi diciamo che orientiamo il cittadino solo quando c'è. Sì, non incentivate la causa. No, assolutamente no, perché la macchina della giustizia deve essere utilizzata in modo appropriato, deve essere aggirato e così via. Però ecco, per esempio, di 768 consulenze fatte nel 2015, per esempio, le consulenze negative fatte dal nostro movimento sono il 62%. Soltanto il 27% ha una consulenza positiva, e questo non vuol dire poi che automaticamente dalla consulenza positiva in giudizio ne consegua anche un risultato positivo per il cittadino. Quindi dire che anche il numero delle cosiddette cause, la moda del risarcimento del danno del cittadino, secondo noi va ricondotta ad una dimensione un po' più contenuta rispetto a quanto detto. Un'osservazione e una domanda. L'osservazione è questa: con alcuni amici più giovani di me, statistici formati a Sant'Anna, di Pisa, cioè, insomma nelle scuole di statistica più avanzate italiane, che sono all'estero, e alcuni dei quali pubblicano rapporti internazionali proprio in termini comparati sugli errori medici, il problema che loro pongono, e stiamo cercando di sostenerli, è quello di avere più accesso ai dati. Sia dal punto di vista nazionale sia dal punto di vista per esempio del segmento privato ospedaliero, l'AIOP nel nostro paese. Senza un accesso ai dati, gli studi su il coefficiente di rischio che servono sia per le assicurazioni ospedaliere sia per quelle dei medici, sia per capire bene chi ha ragione, no? Per esempio tra Remuzzi e Aceti, è un passo avanti che manca al trattamento dei dati della sanità pubblica nel nostro paese, e questa è una grave lacuna, perché quello che dice Remuzzi trova riscontro, e come, nel fatto che ci siano parti d'Italia in cui le assicurazioni ai medici e alle aziende ospedaliere dicono: signori, i premi sono stellari, vista la concentrazione di azioni giudiziali sanitarie. E quindi questo è il fatto. Sulle percentuali Ha ragione Aceti, però i due fenomeni insieme in un paese che trattano i dati e che non può dire dei dati, ognuno ha un'opinione diversa, non possono stare insieme, perché significa che ci sono meccanismi non trasparenti nella valutazione del rischio marginale, di che cos'è una causa azzardata rispetto a una fondata, perché gli errori sanitari ci sono e come, e soprattutto per la valutazione dei rischi a cui si espongono le strutture, i medici, i pazienti e le relative assicurazioni. Quindi secondo me c'è un grande buco su cui riflettere al di là delle polemiche, però l'osservazione che faccio Remuzzi è questa: se estendessimo dovunque il fascicolo elettronico, quindi con accesso digitale in ogni singolo passaggio, diagnosi, assunzione di medicine, chi le prescrive eccetera eccetera, intervento in camera operatoria, dandone poi l'accesso anche al malato e a chi ha facoltà espressa dal malato, non abbatteremmo in maniera verticale il rischio di azioni azzardate giudiziali in campo sanitario e medico, secondo lei, professore? Sì, bisogna tener conto che estendere a tutti il fascicolo elettronico non è tanto facile. Avere un fascicolo elettronico che funzioni è un dramma. Tutti gli ospedali italiani, lo hai negli Stati Uniti, lo è dappertutto. Pensate che è uscito uno studio recentemente in cui la cartella elettronica in terapia intensiva, a posto della carta, adesso dico una cosa dove tutti si scandalizzeranno, ma questi sono i dati di questo studio, ha comportato un aumento di bambini morti. Perché il far funzionare in un ospedale la cartella elettronica è ancora un problema che hanno tutti. Io parlavo con una pediatra di Boston poco tempo fa, che mi raccontava la difficoltà che hanno loro e che abbiamo noi, che rischiamo di paralizzare gli ospedali con la cartella elettronica, perché tutti pensano che la cartella elettronica è la soluzione di tutto, in realtà non è vero. Se posso tornare un secondo sulla questione da cui siete partiti, certo, di questo medico, io non voglio entrare nella questione di questo medico, voglio dire però una cosa. Io ho letto: allungare strategicamente le liste d'attesa nel suo reparto dell'ospedale pubblico, costringendo chi poteva permetterselo ad andare a pagare. Ecco, questo è il grande problema. Io non so se si applica a questo medico, può benissimo non applicarsi, ma noi dobbiamo renderci conto come non deve succedere che all'interno della stessa struttura chi ha possibilità economiche può essere curato prima e meglio di chi non ne ha. Questa è la negazione del Servizio Sanitario Nazionale. Allora facciamo allora, così. Prego, finisca. No, io mi chiedo, non è venuto il momento di ripensare al nostro ruolo nell'ospedale pubblico, di capire che lo stipendio deve essere adeguato, ma la gratificazione te la dà l'aver imparato a guarire, che è un grande privilegio. I sindacati dicono: se aboliamo l'intramenia, che è questo sistema per cui ti dicono tac, tra sei mesi per il tumore al seno, se no domani mattina se paghi, i migliori lascerebbero l'ospedale. Non è affatto vero. Io vorrei fare una provocazione, della quale non mi segue nessuno purtroppo, chissà che non trovi a forza di parlarne qualcuno che mi segue. Perché non facciamo in modo che gli ospedali pubblici siano pubblici, fatti da giovani, che si occupano del Servizio Sanitario Nazionale, che sarebbero felici di farlo, che starebbero in ospedale fino a tardi alla sera, abolirebbero le liste d'attesa, opererebbero al mattino e al pomeriggio, imparano da persone esperte che non lascerebbero l'ospedale, ve lo assicuro, e quelli che vogliono guadagnare vanno nel privato. Nel privato, quindi l'abolizione dell'intramenia. Perché guardate che quando noi parliamo di privato, parliamo di un privato accreditato, cioè certo. No, non vuol dire serie A, serie B assolutamente, ma vuol dire creare tornare insomma indietro e creare una divisione per cui non si creano quelle situazioni che uno è in un ospedale pubblico ma fa l'intramenia e si sa, poi si creano situazioni a volte difficilmente spiegabili. Allora dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi rientriamo, state con noi. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, eccoci qui, caro Oscar. Vogliamo sentire Mauro che ci chiama da Torino. Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti. Ma volevo intervenire sul dibattito sui medici. Allora, a me sembra che l'aumento delle cause sia anche figlio della scarsa credibilità di tutte le istituzioni, di tutte le professioni, e che un ruolo importante l'abbiano giocato il fatto che gli ordini, che dovrebbero garantire anche verso l'esterno, la percezione che se ne ha è che gli ordini siano diventate delle corporazioni che tutelano esclusivamente i loro membri. E l'ordine dei medici, da persona che guarda all'esterno, a me appare così. Per cui sembra che se in un ospedale ci sono un numero significativo di medici che non lavorano, questo non sia un problema dell'ordine. Se ci sono dei problema dell'organizzazione dell'ospedale, magari dei dirigenti che dovrebbero. Ah certo, però il problema è che o gli ordini tutelano la professione anche attraverso azioni che dimostrino la loro capacità di tutelare l'utenza. Altrimenti non funziona. No, no, è chiaro, poi questo non giustifica le cause inutili, non giustifica nulla. Credo però che un ruolo più attivo da parte dell'ordine dei medici porterebbe forse a diminuire nel tempo questo. È chiaro. Un intervento di Mauro da Torino, cioè il ruolo e responsabilità degli ordini. Devo dire, tranne un'unica eccezione di cui ho spesso parlato, un'eccezione è un problema trasversale che riguarda tutti gli ordini professionali. Tutti. Condivido. Cioè, perché senza adesso medici no. Però ce ne sono alcuni che riguardano le categorie professionali senza le quali, per esempio, la mafia non riuscirebbe a stare in piedi perché hanno bisogno di professionisti per fare cose finanziariamente, eccetera. E i casi di intervento su queste cose di gravità assoluta, di enorme impatto, di gravità sociale, per quegli ordini si contano sulla punta delle dita. Quindi c'è un problema serio sugli ordini. Come no. Paolo da Milano, buongiorno. No. Intanto complimenti a Milan, ieri sera ci siamo divertiti al Manzoni. Un po' di cose. Per quanto riguarda il discorso delle liste d'attesa, io lavoro in una struttura privata convenzionata. La realtà, secondo me, non può essere ridotta al fatto che nei pubblici dovrebbero lavorare i giovani, perché nel privato convenzionato, siccome i conti vengono tenuti ben attenzionati, le liste d'attesa, soprattutto per le prestazioni ambulatoriali, sono non lunghe. Perché ci vuole un'efficienza che purtroppo spesso nel pubblico nessuno controlla cosa venga fatto. Tornando al discorso delle assicurazioni, noi medici abbiamo dei costi assicurativi che sono esorbitanti. Io da pagare una cifra pari a 1.500 euro in quei 18 anni sono diventati 6.500 senza aver avuto un sinistro. Ci sono ormai su tutti i players assicurativi sul territorio nazionale, forse sono 8-10 quelli che assicurano i medici. Ma credo che per capire qual è il problema è che bisogna vedere che le cause che arrivano in giudizio sono una minima parte rispetto a tutti i procedimenti che avvengano e si chiudono per via stragiudiziale, proprio perché il concetto è facciamo la causa, qualcosa verrà su. Sì. E sono d'accordo con coloro, con colui che ha detto che è scandaloso che vi siano delle pubblicità dove dicono chiaramente hai 10 anni per far causa al medico se pensi che ti sia stato fatto qualche cosa di ingiusto, perché questo fa passare incentiva questo tipo di assolutamente. Vabbè, insomma, sono pubblicità. Un'ultima cosa. No, io però, scusate, la seconda volta l'ha detto Ramuzzi, lo dice anche lei, perdonate, cioè la libertà anche per gli avvocati di cercare il cliente da che c'è stata la libera decisione Bersani esiste, io l'ho difesa. E quindi io capisco che dal vostro punto di vista questo sia un grave scandalo, in realtà in termini di legge non lo è, ci tengo a precisarlo, non sono io che decido la pubblicità Radio 24 né mi ci identifico con le scelte, però evitiamo anche che chi ascolta sembri che chi manda in onda quelle pubblicità sia un fuorilegge, perché non, sottolineo tre volte, non è così, punto. Non so, vorrei sentire da Aceti un commento, se vuole, agli ascoltatori, per esempio sull'ordine professionale, sul fatto che, come ci diceva l'ultimo medico, si fa causa, poi non si arriva in giudizio, tantomeno a condanna, se non in situazioni veramente minimali, però intanto uno spilla dei soldi, ecco, diciamo la verità, ai medici. Torino, Aceti. Ma sul ruolo degli ordini dei medici noi diciamo da sempre abbiamo chiesto una maggiore incisività nel caso in cui appunto ci fossero delle situazioni gravi anche con provvedimenti disciplinari, perché sicuramente ma sono rarissimi anche quelli, sono rarissimi, ma guardi, non nell'ordine dei medici, ma, certo. Ma anche dei giornalisti, degli architetti, degli avvocati, sul quale però bisogna lavorare, bisogna lavorare molto, perché poi i cittadini hanno anche una restituzione ai loro occhi anche di queste azioni o non azioni da parte degli ordini. Ora in questa fase so che c'è un lavoro importante per quanto riguarda la Federazione Nazionale degli Ordini Medici si sta facendo molto di più, si sta anche lavorando molto su incontri, confronti credo che da questo punto di vista noi ci aspettiamo molto. Direi che l'ordine dovrebbe lavorare molto da questo punto di vista sulla comunicazione, sulla relazione medico-paziente, perché per esempio stando ai nostri dati abbiamo questo dato che è molto importante. Cosa ha spinto il cittadino a ritenere di essere vittima di malpractice, no? Rivolgendosi a noi, e sicuramente il 34% delle persone che si sono rivolte a noi, per esempio, dice che c'è una carenza di umanizzazione nella relazione medico-paziente, e un altro 27% una carenza di informazione tra medico e paziente. Ma guardi, questo per dire che se miglioriamo anche la comunicazione e la relazione che c'è tra medico e paziente, sicuramente si riducono queste cause. Però aspetti, Aceti, perché abbiamo un minuto, una domanda dobbiamo farla, se no non faremo i giornalisti al professor Remuzzi, no, caro Oscar? Perché il professor Remuzzi sa che lei lo sa, insomma, adesso magari non voleva fare un colpo basso, ma si parla di lei all'Agenzia Italiana per il Farmaco in un ruolo apicale di presidenza, con polemiche, conflitti di interessi. Lei che risponde? Ascolti, io dico due cose. La prima è che il fatto che, con tutti i bravi che ci sono in Italia, la maggior parte delle regioni e il ministro abbiano indicato me è una cosa che mi onora moltissimo, e veramente io quando l'ho letto non credevo a miei occhi. La seconda è che abbiamo un ministro bravissimo, dedicato, competente, è una persona che vuole cambiare le cose, e io sono sicuro che lei sceglierà la persona migliore, e dentro in quei tre lì c'è una persona di grande valore. Ma chi? Uno diverso da me. Era chiaro. Hai voluto far dire. Chi conosce il professor Remuzzi non aveva dubbi sull'interpretazione di cosa stava dicendo, e questo gli fa onore come se. Perfetto. Noi la ringraziamo. Ringraziamo il professor Giuseppe Remuzzi. Ringraziamo Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato, cittadinanza attiva. E che dire, caro Oscar, ci ritroviamo domani. Ci ritroviamo domani, entusiasmo. Ma certo, oggi tu sei arrivato con tante notizie belle. Il platone tutto esaurito, forza. Ho capito, tu hai detto l'ultima serata. Quale ultima serata? L'ultima serata. L'inizio di una cosa ancora più tumultuosa è successa, tu e di Leonardo Manera. Ma forza. Forza, forza. Ciao, alla prossima.